forse è troppo forte. Forse stavo parlando troppo vicino al microfono, capito? Perché stavo accordando. Allora è quello, dai. Adesso proviamo a lasciarlo attaccato, vediamo, era tantissimi anni fermo e quindi era buttato in uno scaffale basso, proprio dimenticato. Vediamo se va, ma secondo me le valvole sono da sostituire. E magari sono consumate, secondo come l'hai usata e quanto l'hai usata e quando l'hai usata. Quello lì. Cosa ti volevo dire? Quello me l'ho dato, mi ho preso, 40 canali. Ma ormai come ne si rugavo da rabbia che ci vuole. Ho capito, e già va bene. No, io non lo so, questo qua non penso che sia l'HR5005, non penso che lo possa mettere in concessione perché avendo tanti canali e poi così, è come il brutto. E ce l'ho anch'io quello lì, solo che quello non va bene. Poi non è il fatto di metterlo in concessione, non si mettono più gli apparecchi in concessione. La concessione nuova è un foglio usuro, un divecrito, le tue generalità e basta. Invece prima si metteva quanti apparati a vivi, che cosa vivi, io mi sono avevo 3 o 4 tutti CB normale, mi erano 48 il primo, che poi diciamo l'ho fatto modificare, prima ho preso un altro normale, proprio la Fayettex, cosa vivo, avevo un Intec, tutto in concessione ce l'ho io. Comunque, allora sai cosa ti dico? L'importante è che ne hai uno che è omologato, marcato, c'è, capito? Che se no non vale più. A me me l'hanno sequestrato uno perché non era marcato c'è ed era omologato. Questo non lo so, perché io l'ho comprato nuovo lo stesso. Sinceramente non mi sono tolto mai la briga di guardare se era marcato CE. Dietro c'è la targhetta dove c'è scritto CE, se non è marcato CE non ha più l'omologazione, capito? Deve essere marcato CE. Guarda se ce l'hai qualcuno e te lo lasci lì. Sì, registrato. Sì, credo di sì, di averne, qualcuno già ce l'ho anche normale. Avanti il break, chi è? Buongiorno. Buongiorno, buona domenica, ma ho capito Pontedera, poi c'è stata una sola innovazione. 7351, dai, stazione Tino Muscolo, buongiorno. Ciao Francesco, ciao, ti saluto, ho sentito Francesco. Tutto contraccambiato al centro, Francesco, ti saluto anche io. 7351 dalla Sardegna, città di Sassari, ok? Grazie Francesco del rapporto, 95, ok? Tu Santiago 6, Radio 5, ok? Però già sta andando. Io ho una fesseria, non ti la posso dire, che mi arrivino tutti con lo scala ai noghi. No, signori, non ti li posso dare con questo apparato, non serve a nulla. Attenzione, Sassari, ti ascolti Lecce. Ciao Lecce, buongiorno. Buongiorno, giusto per darvi i complimenti, 9 più in provincia di Lecce, Radio 5. 9 più, grazie. Qua Santiago 8, Santiago 8, Radio 5 perfetta, complimenti per la radio, per la trasmissione. No, io sono aiutato con un piccolo amplificatorino, provando così a vedere se va bene. Va perfetto, va, ti sento stereofonico. Cappa, dai, sono contento allora, vuol dire che la cosa sta andando bene. Sto andando con un HR5005, un microfono preamplif MB più 5 e un 747 in accoppiata, ecco. Si sente che spinge, io da parte mia ho un vecchio apparato 40 un microfono da tavolo MB più 4 e poi un amplificatore, diciamo, di quelli un po' più visto adesso. non ho capito l'ultimo passaggio, un amplificatore? Su B750P, di quelli dei camion a 24 volt. Ah, K, positivo, bello, bello, ma anche io vorrei fare una cosa del genere, dai, perché questi ormai sono io, obsoleti. Tutto contraccambiato, ok, grazie altrettanto, buona domenica, tante cose belle. Vai Natali. Papà, io sto uscendo a portare il cane, sì, ci sentiamo dopo magari se ci sei. D'accordo, va bene, ciao Natali, ciao ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, c'è qualcuno sul 10, cambio? Hola, hola, avanti Lola, buongiorno, buona domenica. Mia Natalino, ce n'è anche un altro, chi è l'altro? Sì, ciao Roberto. E oggi c'è un po' di propagazione, c'è un po' di disturbo. Mi ascolti a me Roberto? No, Roberto sono. C'è anche Natalino, non so se lo ascolti. Natalino, l'hai ascoltata Roberto? No, negativo. Io ho l'antenna bassina. Finché non mi decido a cambiarla e a metterla più in alto, non c'è nulla da fare. E tu l'hai ascoltato invece Roberto Natalino? Purtroppo oggi, vabbè, Natalino è in una situazione un po' critica, c'è l'antenna bassa, un apparato piccolino, diciamo, tira un paio di watt e basta. Anche lui prima si faceva ascoltare molto forte, purtroppo adesso è in una situazione un po' particolare, ha cambiato QTH. Ok, vediamo se c'è qualche donato su 10 ancora. E cosa? È Angelino di Alghero, sentito l'hai Roberto? Vediamo questo telefono per... Chi è che fischia? Io. Io parla che così almeno non ti ho riconosciuto questo cavolo di baracchino. Che sei in attadino? E io. Ah, in attadino, ti faccio squillare un telefono. Dai, Tonino, fammelo squillare, così che mi capisci. Sì, così che mi calmi il nervo. Troioso. Sì, mi calma il nervo. Ah, è sì. Buongiorno, buongiorno, oh yeah. Si vive il ricordo ogni tanto, dai. Purtroppo sì, dai. Ci manca il giorno della frequenza. Insomma, non lo so. Ma non lo so, insomma, a parte di lì poco non si incazzava, eh. Solo per quello, perché magari ti facevi qualche risata. Sono rientrato comunque, ciao Tino e ciao cosa? Tonino. Cosa? Sono rientrato e ho il telefono, c'è anche D'Alghero, c'è coso, c'è anche Roberto D'Alghero, non so se l'ascoltate, stavamo parlando prima con Natalino, vabbè Natalino tra loro due non si ascoltavano, avanti Roberto se ascolti a Tonino e a Tino, avanti Ro. 2, 3, 4, avanti si ascolti a me, Tonino. No, non ascolta, a Tino, prova tu se ti ascolti. 4 watt sto usando, prova poco. Infatti. Va bene, ciao Roberto, dai. Niente, quello che lo sento basso, però già sono riuscito a toglierlo fuori. Chi è Roberto? Roberto, chi è che non lo sento, mi sto correndo? Si chiama, no, pensavo stessi dicendo a lui, si chiama anche lui Roberto D'Alghero, un radioamatore, anche lui ha una situazione d'antenna non perfettamente adatta sugli 11 metri, c'ha un'antenna per altre cose e l'ha accordata, diciamo, per irradiare qua su questa banda. Ok, avanti di nuovo Tino per Roberto, se dice ti ascolta a basso comunque Tino, no, qua sta arrivando 8-9, dai. Vabbè, io sono in condizioni precarie, dai. Ciao Roberto, ti ascolto basso, comunque, non so se ascolti anche a me. Hai capito, Tito? No, non lo sento, Roberto, l'ho detto. Sì, che ti ascolta in mezzo al cuore, ma però ti tira fuori. Beh, io sono negativo per Alghero, ne puoi mettere anche 500 là. Ho la collina che mi impedisce. Basta utilizzare il sottino, che apparato? È sempre la TR5005. Col microfono cos'è? Il più 4, cosa ci avevi messo? No, ho il più 5. Scusa, volevo dire il più 5, là. Ok, no, molto forte la radio. Ok, Tonino, avanti a te il mic. Tutto liscio sono io, mic normale, tu non vuoi di attaccare niente. Capito? Comunque, io ascolto Santiago 4-5, amico di Roberto Alghero. Proprio a livello QRB proprio, che a volte la propagazione sale lo supera pure, non lo copre del tutto. Mi ha ascoltato Roberto Antonino, forse si è allontanato, adesso non lo sento più. Ok, vai Natale, facci sognare. C'è poco da farci sognare, e cosa sogni? Natale, tu quando sei nato, per curiosità? 29 agosto del 57, classe di ferro. Sono quante volte io? Se tu sei classe di ferro, 57, e devi l'hai bucata pure Isla. La classe di ferro sono io da 54. No, e a chi ti chiami Natale allora? Io pensavo che era Natale, era derivato da Natale. Derivato che mio nonno si chiamava Natale e quindi mi hanno messo il nome di mio nonno. Ecco da dove è derivato. Adesso lo sai, curiosone. No, perché tra sei mesi, poco più di sei mesi è Natale, per quello mi è venuto in mente. Sarà il mio onomastico, se campo fino ad allora. Se Dio vuole i carabini li permettono. Se non vengono a fare un altro controllo ti portano anche a te, ti mettono i ferri insieme ai baracchini, cacchio, pirata che non sei altro. Guarda che c'ho zia Glock, zia Beretta, poi c'ho il fucile a pompa, una carabina americana, insomma, abbaia un po' così ti conviene. Ogni pezzo che fai sono dei zanni, fa trubotto. Io c'ho regolare porto d'armi. No, però io non esco più a casa, eh. E tira l'assico ce l'hai Natalia, mi pare manca solo tira l'assico. No, quello mi si è rotto anni fa, ma già me lo rifaccio. Chi le vende le fette quadrate adesso? Se dobbiamo andare sempre Pasquale o D'Andri, dove si va a comprare Tino le fette quadrate? Dove andavi? In farmacia. Io andavo a Pasquale. Ciao. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Aspetta, è rientrato Roberto, ci sei ancora Roberto D'Alghero? Ok, dai, è rientrato anche Giulio, diciamo adesso sta ripopolando questo canale, dai, anche se c'è un po' di propagazione, ogni tanto scompare qualcuno, dai, quelli più bassi, comunque per il momento sto ascoltando a tutti. Riprendi Giulio. Anche Giulio è scomparso. Comunque Adri ha fallito, Pasquale è ancora aperto. Sì, vabbè, Pasquali ci sono, l'hanno rilevato la famiglia Vitali e l'altro, però il vero Pasquale, no, penso che sia pure morto. La ditta esiste ancora, però il nome è Pasquale, però ci sono altre persone. Andrì è chiuso completamente, non, mi pare non c'è più quello. Mi schiatta mezzo la droga. Cos'è? Non ho capito. Mi schiatta per la droga, Andrì. Ma che figlio? Eia. Non lo so. Non sapevo. Ok, e ormai questi negozi di caccia e pesca ormai quasi tutti hanno chiuso, mi sta più andando il sub, la subacqua ogni tanto ne apre uno, poi ne chiude un altro, eccetera. Cacciatori ormai arte in via d'estinzione. Forse Natalina già lo so come si chiama. Aspetta uno per volta, vai Natalina un attimino, se no non capiamo, vai Natalina. Non ho capito quello che stava dicendo Tonino. L'armeria che c'è giù al corso, che non mi ricordo come si chiama. Ma coso è quello? Ma ce l'ho sulla punta della lingua. Che c'ha il bar anche a Presanesa, quello lì. Gambella. La è. Chi? Gambella. Bravissima Gambella, io. Vabbè, signore, dai che mi sposto, che così prepariamo il tutto per papai. Vi saluto, magari a stasera, dai. Ehi, anche io mi lontano 5 minuti, scusate un attimo. Ehi, ciao ciao. Ciao, ti sta bene, buon cuore, ci sentiamo, a buon certo quello che ho fatto. Buon cuore che batteria. Avanti, Natalia. Ehi, ciao, tì. Buon proseguo. Ma Giulio che fine ha fatto? Oh, toccata e fuga ha fatto. Giulio, ci sei? Oh. Respira. Oh. Oh, io. No, ma Giuliano e Vannuzza, ho fatto anche troppo stamattina presto, cara. Allora siamo in due. No, io mi sono finito un mobile, dai, stamattina presto. Ho dovuto aspettare le 8:30 per attaccare la circolare, che è grande. E poi con alcuni ritardi ho tutto sono fatto. Io mi ho fatto tre spezzoni, c'avevo i PL nuovi, me ho comprato l'altro giorno. E mi ho fatto tre spezzoni, almeno ce li ho in H155, li ho fatti. E quelli li ho fatti tre, ne ho fatto ieri io, con i PL. Perché c'è l'accordatore, fa un commutatore d'antenna, allora. Sopprazione, vabbè. Quanto arriva la popolazione, Natalie? Natalie? Qual telefono? Vabbè, per portate via. Allora, quel X per me.